Ciao, sono Chiara, ho 22 anni, abito a Pioltello in provincia di Milano, sto per laurearmi in filosofia e suono la batteria.